Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Roma, durante il concorso ippico l'eleganza dei cavalli si alterna con quella delle 100 cavalli, scrigni lucenti delle ultime invenzioni della moda. I cofani specchiano la maestà dei pini, la grazia delle indossatrici. Dalla pedana, dove si combatte una battaglia di dame, alla pista per la Coppa delle Nazioni. 5 squadre, Messico, Irlanda, Francia, Svizzera. Ed ecco la squadra d'Italia che si classificherà terza. Il tenente colonnello Conforti sorvola gli ostacoli con gli zoccoli precisi di encomiabile. Piero D'Inzeo misura la foga di furore e sarà il meglio classificato dei nostri. Gara bellissima. Facchinetti e il presidente della FISE premieranno i messicani. Il glamour, la moda, i VIP. E poi i veri protagonisti, i cavalieri, coi loro cavalli straordinari. È il mito di Piazza di Siena, il più celebre concorso di equitazione al mondo, che anche quest'anno si è perpetuato nel suggestivo scenario di Villa Borghese a Roma per l'85esima edizione. Proprio questo mito riviviamo oggi a Olimpia, ripercorrendone storia e protagonisti, appunto. E allora facciamo subito un salto a Villa Borghese, a Piazza di Siena, appunto, per incontrare un amazzone della squadra azzurra e del gruppo sportivo dell'aeronautica che in quello scenario ha gareggiato proprio in questi giorni. Giulia Martinengo Marchè, benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti, ciao. Giulia, sempre un'emozione straordinaria, immagino, essere in gara a Piazza di Siena, epigona di una tradizione magica. Pensare che 80 anni fa dei cavalieri prima di te hanno provato le tue stesse emozioni e hanno fatto di tutto per poter partecipare quando ancora in quegli anni non, i concorsi erano pochi, quindi era veramente un evento. Adesso sì, Roma si riconferma la meraviglia che è Piazza di Siena, in una location che nessun altro concorso ha, e si respira un'aria diversa a Piazza di Siena, ed è la cosa che mi viene in mente tutte le volte che arrivo mercoledì. Penso, wow, sono fortunata, ce l'ho fatta ancora un anno, insomma. Sì, davvero penso sia proprio così. Dicevamo, quella appena conclusa è stata l'85esima edizione del concorso romano. Proviamo allora a ripercorrerne la storia con la nostra seconda ospite, giornalista, esperta di equitazione, in passato amazzone, allevatrice a sua volta, Caterina Bagnozzi, benvenuta a Olimpia. Buonasera a voi tutti, grazie. Caterina, raccontaci subito come e perché nasce Piazza di Siena. Nasce addirittura all'inizio degli anni 20, quando per la prima volta in questo magico invaso di Villa Borghese entrano, dopo che insomma ci sono stati cavalli in ogni modo, perché ricorderemo che questa piazza è stata voluta dalla famiglia borghese proprio per riproporre a Roma, la città dove loro erano arrivati da Siena, un po' quell'origine del palio che loro erano abituati a vivere, ovviamente. Quindi arrivano i cavalli a Villa Borghese in Piazza di Siena con una organizzazione strutturata sportivamente, quella praticamente della Federazione Equestre Internazionale, cioè del momento in cui si sta sviluppando in tutta Europa e anche negli Stati Uniti il concorso ippico, gli sport equestri. È quindi negli anni 20 che prende forma il concorso vero e proprio. La Federazione Equestre Internazionale istituisce proprio un circuito denominato il circuito delle Coppe delle Nazioni, di cui Roma comincia entra a far parte nel 1926. 1926, anno però in cui questo concorso ippico non era più a Piazza di Siena, bensì veniva disputato all'ippodromo di Villa Glori, che era una struttura appunto dedicata ai cavalli, che poi è stata tolta per fare posto alla costruzione del villaggio olimpico in previsione delle Olimpiadi di Roma 60. Quindi il primo anno questo concorso ippico, che si chiama così Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma, si disputa a Villa Glori. Dopodiché per i due anni successivi si disputa in un altro ippodromo limitrofo, sempre ai Parioli, e torna per la prima volta a Piazza di Siena nel 1929. La datazione ufficiale parte da questo 1926. Piazza di Siena è anche il campo di gara in occasione delle Olimpiadi Romane del 1960, giusto? Sicuramente è stata la sede della prova di concorso ippico per quello che riguardava l'assegnazione delle medaglie individuali, perché poi invece la prova a squadra è stata disputata allo stadio olimpico. La prova a squadra è come gara di chiusura del programma delle gare dell'Olimpiade ed è stato insomma un momento magico per Piazza di Siena e per l'equitazione italiana, perché è stato il momento in cui i due fratelli Linzeo, Raimondo e Piero, si sono aggiudicati rispettivamente la medaglia d'oro e la medaglia d'argento individuale. E allora torniamo con la memoria a quel pomeriggio d'oro del 7 settembre 1960. Raimondo e Piero Linzeo, primo e secondo alla ribalta. Uno spettacolo tante volte ammirato a Piazza di Siena, ma oggi è più bello. Ed è come se lo vedessimo per la prima volta. Davvero quella doppietta olimpica dei due fratelli Linzeo fu il più bel successo di due carriere straordinarie, come confermerà più volte proprio Raimondo, raccontando anche un gustoso retroscena della sua vittoria. La cosa più bella, e qui parlo in particolare un po' del nome nostro di famiglia, è stato l'aver culminato la nostra attività con le Olimpiadi, per fortuna proprio le Olimpiadi di Roma del 60, finendo al primo e al secondo posto nella prova individuale. Credo che è la più grossa gioia che possa avere un atleta, e credo sia io che sono stato primo, che mio fratello che è stato secondo, siamo ugualmente contenti, ben sapendo che poteva anche essere un risultato invertito, che era la stessa cosa. L'episodio che io ricordo di più è un episodio un po', chiamiamolo, comico, perché proprio le Olimpiadi di Roma, fra il primo e il secondo percorso, perché erano due manche, e mi ricordo che sono andato un momento a casa e c'erano due ore di intervallo a mangiare una bistecca, io poi ero talmente emozionato, talmente impressionato che mi sono addormentato, e per fortuna mi hanno svegliato 5 minuti prima che ricominciasse la gara. Infatti ho fatto una volata al campo con la macchina tutta fritta, montato sul carro, sentato dentro, è andata bene, abbiamo fatto il giro. Ma il risveglio fu più provvidenziale, viene da dire, anche perché Raimondo faticherà non poco a condurre il suo posillipo, forse infastidito dalla luce bassa sul campo di gara. Eccolo alla doppia gabbia, quella che ha sbagliato stamattina, ma stavolta l'ha superata il primo ostacolo e ha superato anche il secondo. Raimondo è veramente superbo. Reggendolo con fili di seta, Raimondo conduce il suo vecchio posillipo attraverso tutte le asperità del tracciato. Dopo di lui, chi farà meglio? Per fortuna nessuno farà meglio di Raimondo, neppure Piero, che chiuderà d'argento, pur essendo stato il migliore quel pomeriggio in sella al fidato The Rock. E i due Linzeo saranno protagonisti anche nella prova a squadre, nella giornata conclusiva, stavolta sul prato dell'Olimpico, che ci regalerà un bronzo che avrebbe potuto essere anche medaglia di un metallo più pregiato. Medaglia ai colori italiani, ce la offrono i cavalieri, terzi nel Gran Premio di Salto agli Ostacoli, gara conclusiva delle Olimpiadi. Poteva andar meglio, Raimondo Linzeo ha toccato il limite minimo delle penalità, ma la sfortuna ha giocato un tiro basso ai compagni di squadra Piero Linzeo e Hoppes. Primi i tedeschi e secondi gli americani. Al tramonto gran finale tra il patetico e l'entusiasmante. Roma dice addio ai giochi che hanno visto l'Italia protagonista fra le maggiori. Per tutti un impegno, arrivederci a Tokyo. Beh, davvero emozionante rivivere insieme quello splendido pomeriggio olimpico del 7 settembre 1960 a Piazza di Siena. Ora una breve pausa, poi qui a Olimpia torniamo proprio sul campo di gara del grande concorso romano. Olimpia, miti e verità dello sport. A Piazza di Siena sarà drammatica la contesa per la Coppa delle Nazioni. Forse lo presagiva il pubblico a corso così numeroso. Se la bella stagione si mantiene restia, i cappelli delle signore hanno deciso che è venuta la primavera del 51. Arriva Einaudi con Donna Ida. Schierate le squadre di 7 nazioni. Fino a 3 quarti di gara la lotta parrà ristretta tra Francia e Inghilterra. Al terzo percorso l'Inghilterra passerà al comando. Sarà solo all'ultimo un teso, emozionante e volitivo percorso netto di Piero D'Inzeo a sgominare premesse e conquiste delle squadre rivali. La Francia e l'Inghilterra passeranno ex aequo al secondo e al terzo posto, la Spagna al quarto e la Coppa delle Nazioni rimarrà all'Italia. Voci della memoria che ci raccontano della piazza di Siena che fu la culla della nostra equitazione e forse il concorso più celebre al mondo nella suggestiva cornice di Villa Borghese a Roma. Oltre a Giulia Martinengo Marchè, amazzone della squadra azzurra, e Caterina Vagnozzi, collega esperta di storia dell'equitazione, ci ha raggiunto quello che è stato il direttore sportivo dell'edizione 2017 di Piazza di Siena, ma che al concorso romano ha partecipato per ben 23 volte come cavaliere ed è stato anche CT della nazionale italiana. Duccio Bartalucci, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera a voi. Bartalucci, subito una curiosità. Qual è il suo primo ricordo di Piazza di Siena? Penso avrò avuto 6-7 anni, anzi, che è un'edizione di Piazza di Siena del 59 addirittura, e io già andavo, i miei mi portavano a montare a cavallo alla società ippica romana, alla Farnesina, e mi ricordo come spettatore mi colpì tantissimo la squadra americana. C'era un cavallo con un mantello molto esotico, un palomino, si chiamava Nautical, e quindi quello è un primo ricordo che ho di Piazza di Siena. E poi tanti altri, quando sono entrato a 14 anni come alfiere, all'epoca c'era questa sfilata con le bandiere, la sfilata delle squadre, era un rito, e gli allievi della società ippica romana avevano questo onore di portare le bandiere. Mi ricordo 66 portare la bandiera della Francia. Poi la prima Piazza di Siena da cavaliere, l'internazionale del 71, finivo i 18 anni, entravo nei 19, e quel giorno era appunto il mio compleanno, il 4 maggio, era il giorno di esordio del concorso, e lo festeggiai con una quasi vittoria perché feci secondo in quella gara. Davvero trovarsi alla partenza su quel campo di gara non doveva lasciare indifferente neppure un cavaliere noto per il suo sangue freddo come lei. È il momento più emozionante, penso tanti, però ecco, ricordo proprio, io sono sempre stato considerato un cavaliere che sa dominare l'emozione, per quello anche già giovanissimo, quando diciamo ho cominciato a far parte della prima squadra nazionale, mi assegnavano sempre il ruolo di quarto, che è quello del cavaliere che deve, nel caso, assicurare il risultato, quindi quello che deve avere i nervi più saldi. E quindi non penso di avere mai sofferto particolarmente una gara, però mi ricordo che la prima volta, appunto quel 4 maggio del 71, io di solito poi, diciamo, una mia peculiarità era di presentarmi, di ritardare la permanenza nel campo prova, e quindi arrivare sempre un po' all'ultimo momento, no? al cancello della gara, e invece quella volta, un po' per l'emozione, la tensione, mi ricordo che mi presentai con un certo anticipo, e quel minuto e mezzo che ho aspettato davanti alla porta era interminabile, cioè non passava mai. E allora, Duccio, per farle rivivere qualche emozione, un piccolo regalo per lei abbiamo preparato oggi. Ascoltiamo questa testimonianza che ci arriva dal concorso dell'anno successivo al suo esordio, il 1972. Annuale appuntamento a Piazza di Siena per il Gran Premio delle Nazioni del concorso ippico internazionale. Anche il tempo, che non è sempre clemente col concorso, ha tenuto, nonostante le previsioni, a causa di un'area di bassa pressione sul Tirreno centrale. Così le signore hanno potuto sfoggiare estrosi cappellini e elegantissimi modelli. Dalla tribuna d'onore assiste alla gara la signora Leone. Sono presenti anche i reali di Grecia. Ed ecco uno dei due percorsi netti di Raimundo D'Inzeo che hanno permesso all'Italia di tornare alla vittoria nella Coppa delle Nazioni dopo 3 anni bui che videro le bandiere tedesca e inglese levarsi sui pennoni. Raimundo D'Inzeo su Fiorello II, cavallo di pura razza italiana, sta compiendo il suo impeccabile percorso superando i 34 ostacoli disposti su 1480 metri. I fratelli D'Inzeo, Graziano Mancinelli, protagonisti di quella vittoria azzurra, erano gli idoli di Piazza di Siena e lei fu loro compagno di squadra, vero? Il mito del pubblico italiano per l'equitazione erano i fratelli D'Inzeo e Mancinelli, e quindi ho avuto il privilegio di montare in squadra con loro quando loro erano già dei campionissimi affermati ed io ero considerato un giovane astro nascente di questo sport, però credo che insomma, Piazza di Siena, ecco, sia stata caratterizzata poi anche negli anni dalla presenza di tantissimi campioni anche stranieri, quindi diciamo che sia un concorso che ha una storia oramai di 85 edizioni, ma una storia che va appunto al di là di un nome piuttosto che di un altro. E come ben sappiamo, la Coppa delle Nazioni non è solo competizione agonistica, ma anche il luogo di ritrovo di VIP romani e non solo, che respirano e creano l'atmosfera glamour che circonda la piazza. Qualche ricordo personale a proposito, Duccio? Ma sì, c'erano tantissime persone che venivano a Piazza di Siena e perché era comunque il salotto di Roma. Queste persone tu le incontravi una volta all'anno e le vedevi a Piazza di Siena, e Piazza di Siena non mancavano magari neanche ad una prova, ad un giorno di gara. Poi durante tutto l'anno in altre gare, in altre cose non li vedevi più. Per esempio Carlo Giovannelli, il principe Giovannelli, era una persona che chiaramente era al centro della vita sociale romana, e quindi a Piazza di Siena non mancava mai. Poi non è che frequentasse i campi di equitazione durante l'anno, mentre altre persone, mi viene in mente Beatrice, l'infanta di Spagna, la mamma di Marco Alfonso Torlonia, che invece era una grandissima appassionata e comunque a Piazza di Siena non mancava mai, ma lei la vedevi anche magari in altre occasioni di gare di concorso ippico. Campioni e tradizione, quindi il segreto di Piazza di Siena, come ci ricorda Duccio Bartalucci, che ringrazio. Giulia Martinengo Marchè, fino a poche ore fa in gara proprio a Piazza di Siena. Cosa vuol dire partecipare a Roma per un cavaliere italiano? Per noi è il concorso più importante dell'anno e credo che molto sia legato al fatto che abbia questa lunghissima tradizione dove i grandi campioni italiani che ci hanno preceduto hanno fatto la storia mondiale dell'equitazione, quindi l'atmosfera che si vive è assolutamente magica ed è il concorso cui più teniamo noi italiani, ecco. E allora, cara Giulia, lunga vita all'equitazione, anche perché la tua presenza in gara e in campo lo testimonia, è sport che certo non fa differenze di genere tra uomini e donne, visto che anzi voi amazzoni ve la giocate alla grande anche contro i rivali uomini, vero? Devo dire che tutto sommato credo sia l'unico sport, almeno l'unico sport a mia conoscenza, dove le classifiche sono perfettamente miste. Noi gareggiamo con uomini e donne gareggiano insieme a qualunque livello e devo dire, siccome non è uno sport basato sulla forza fisica, perché in verità donne e uomini hanno le stesse opportunità, poiché il computo numerico sia a favore degli uomini, secondo me è stato dato solo dal fatto che infatti quando si mette in famiglia è più difficile per una donna continuare, diciamo, però non c'è una discriminazione nei confronti delle donne, assolutamente. E allora grazie a Giulia Martinengo Marchè per essere stata nostra ospite oggi a Olimpia, la città dello sport. Per salutare Piazza di Siena, a questo punto d'obbligo è uno sguardo sul futuro. E allora, Caterina Vagnozzi, cosa aspettarci dal concorso romano, da Piazza di Siena, per i prossimi anni? Mi aspetterei di continuare a vedere questo straordinario lavoro che quest'anno ha fatto il CONI e la Federazione Sport Equestri, di prendersi cura di una pulizia eccezionale che va oltre l'invaso del campo di gara, ma sta veramente coinvolgendo tutto l'esterno di Villa Borghese che abbiamo intorno qui, con questi straordinari pezzi di architettura come la Casina dell'Orologio e la Casina di Raffaello, che sono meravigliosi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.